semplicemente. Questa roba che è 1,30 m, è così, da quando l'ho amplificata di più, se ne è fatta tutta l'amplificazione ulteriore che ha ancora, prende tutto. No, non succede niente, si sente questo botto, ma non fa niente. Comunque, buonasera a tutti, Claudio Traviero da Sassari, Savonanti Alto, per chi vuole venire sotto casa a mettere la portata, via Ugo la Malta, il numero non te lo dico, insomma, comunque, lo predico a destra, primo portone a sinistra. Via Ugo la Malta. Sei io, salto di controllo, io. Salliero. Mi sentite la bambina, certo, c'è un tono di controllo. Lui c'è la freddata, c'è un lato tappato. Troppo forte la bicina, troppo forte, ma lo sto ascoltando, è uno spettacolo. Va bene, dai, facciamo girare con la strada che ci possa parlare. Se no mi chiamo e vengo il giorno. Vabbè, sono stato morto, ci messo la cosa pesata. Già, devi prima, non ti addormentare. No, non è addormentato. Certo però che mi ha rilasciato la mia presenza. Bello, 700 è quello un po' superiore alle 1,300, molto bello. Sente là. Sì, a nuovo però fa. Costava 8 euro, una ghiacciata, se l'ho preso. Ah, le grazie laterali, un bambino con il sotto. Sarà nuovo dentro. Vabbè, pazienza. Se il vostro... Vedete, molto perché ragazzi, lo vedo, non mi vedo. Grazie a questi blocchetti al resto. E non vi alzavo, a mio amico è successo in fiera. Era molto entusiasta quando siamo andati in fiera l'anno scorso. No, 2 anni fa, alla fiera di Genova. Vedete che si è portati, li altro. Bellissimi, a 20 euro l'uno. Prendo, mi vanno a pegare 0,4. E dice, guardi, non c'ho il caricatore. No, si preoccupa, il caricabatterie, no, già si trova. Arriva a Sassari, comincia a pigliare le scatole. Praticamente il coperchio è buco. Già mi pareva in mezzo di sbrilli, niente, non c'era niente, manco nulla, manco una scheda. Posso? Sì. Oh, là, nessuno conosce chi ha, che mi può fare le fotocopie del manuale del TH78? Del 78? Non lo so. Te lo chiedo, io se ti serve ho la fotocopia del CV2, quella ce l'ho, ho guardato la fotocopia, se serve a qualcuno mi faccio anche il manuale del 500S, perché un tempo facevo anche la raccolta dei manuali dei baracchini. Ma il 78 mi hai capito cos'è, sì? Asso? No, non ho capito cos'è. Avanti, Anto, avanti te. Allora Anto, se vuoi il manuale c'è su internet, su un sito. Il sito è quello che mi ha dato l'altro giorno? Sì, mods.dk. Beh, una volta che mi apre cosa devo digitare? Kenwood? No, ci sono tutte le marche. Premi Kenwood, cerchi il modello che ti serve, premi, c'è la fotografia più il manuale. Perché io l'ho perso, non mi ricordo molto bene, alcune applicazioni, capito? Sì, c'è lo schema e anche le modifiche. Ok. Mo. Non sai cosa ho trovato a piacere mansarda cercando roba? Il Black Jaguar. E cos'è? La Sarrone, cos'è? E c'è Vittore che l'ho portato, il Black Jaguar, non l'hai conosciuto? Quanti anni ha? 70.000 anni. No, anche oggi è impressione. Nuovo, non c'è un grazie. Non accende. Se avesse qualcosa a buio all'interno, ho provato a dare la metà, non accende. Quasi c'è qualcosa bruciato. È nuovo, c'è un'antenna, sembra un zigaro, questa spirale è tutta ricciata. Nuovo. La conosco. Ragazzi, vi saluto, sto andando in sala. Che tardi, insomma è 9:30. Buon questione, buona serata a tutti quanti, sicuramente io faccio ancora carico. Ciao. Siamo stati. Sì. Ciao, ci sentiamo alle prossime. riprendi Gianni, ah, io non ti addormentare per il corso di cibo. No, probabilmente sono io allora, non volevo sentire il mio passaggio. Forse sono uscito male io perché ho premuto male la costante. Ciao Stefano, vai, 244, quando lo farai, buona giornata per domani. Avanti qua di nuovo, dimmi se questo passaggio l'avevi sentito. Vicino, faccio sì, ma ho capito. Nella radio 57 c'è da problema. Io no, perché ho premuto probabilmente la portata dal centro e quindi non ha preso bene, è uscita solo importante, e lui è sicuramente. E ci conferma, segnale già quello. Ok. Altro, bene mi riceve il messaggio. Bella furia, là. Tutto bene. Ciao, sei, buon cliente, buon tutto. Ti volevo dire qua una cosa, lo stadio finale del 9.40, pensi che sia uguale a quello del 140? Ma non mi è piaciuto. No? No, quello del 9.40 con una modifica si può montare al 440 perché c'ha praticamente il piano di serie della scheda PLL uguale. 940 è troppo piccolo, non ci sta. Perché hanno inserito la scheda di trasmissione con la missione finale del 140? Pensavo, solo visto su internet che c'è un nuovo da parlando del 1940, pensavo fosse uguale. Ma la fotografia sembra che si assomiglia, ma non si capisce niente. No, se lo fa un altro te lo dico con una certezza, perché qualche anno fa avevo fatto una modifica al 440. Avevo praticamente affetto che c'ho io, avevo messo il finale del 940. Il mio problema scritto X, che se gli monto il finale è capace che mi bruci subito come va in trasmissione, anche perché io l'ho controllato, ce n'è uno che scalla come un treno e l'altro invece che rimane freddo. Aia, e qual è quello a fianco al finale? No, sono i due bianchi, ho visto nella scheda di trasmissione, ci sono i driver per i finali, quelli che danno l'alimentazione, e poi ci sono i due finali bianchi, i due SC, non mi ricordo cosa sono. E uno di quelli scalla come un dannato. Ed è quello di sinistra? Ovviamente visto aperto, allora aperto, già lo sai, a tipo libro, ma è quello di... No, pensavo di fronte all'alto, visto da di fronte sì, visto da dove c'è la sintonia del VFO sì, è quello di sinistra. E lì c'è dove c'è il VFO, quello di sinistra. E quello è proprio collegato sul circuito del PLL. Quello è il controllo automatico dell'LC. E lì c'è qualche cosa dentro, lo assicuro che non sia il finale. Infatti io, siccome oltre a questo, niente due schermali di questo non ce l'ho, capito, non vorrei rischiare male, se lui è molto più pratico, ha sempre fatto di questi apparecchi, li conosce proprio bene, magari c'ha anche schede, c'ha tutto quello che vuoi per provare, io sì, posso controllare tutto quello che vuoi, l'ho controllato, però non, se l'apparecchio magari non gli dà il pilotaggio giusto, io non avendo schema non posso controllare, non posso controllare il pilotaggio, non posso controllare niente, e mi dispiace perché l'apparecchio è nuovo, non c'ha un graffio. Adesso non entra, sono quelli le apparecchiature che ci danneggiano, quelle che non hanno graffi. Comunque ascolta, io non riesco a tardi, non sono richiamato adesso, domani lo chiamo, dico c'è un problema su un motore finale di 140, cosa mi dice? Ti faccio sapere domani, sento un po' cosa mi dice, perché se sto operando lo chiudi e si porta lì, se invece non sto operando anche non so cosa farti, perché è un periodo che è fatto molto male, ha problemi, quindi non sta più facendo niente, capito? Qualche fesseria così, ma su apparecchiature TF credo che non ci sia più operando, credo, non lo so, provo a chiederlo e poi ti faccio sapere. Facciamo girare, Gianni, riprendi. Da Massimiliano lo comandato. Sì, anche Massimiliano è molto bravo, sì. C'è il laboratorio suo. Posso anche chiedere a Massimiliano che cosa sa, sai. No, claro, preferisco a Carlo. Allora, sentiamo Carlo cosa mi dice. Ma no, perché non... Non lo spiegherò anche un momento. Ho capito. Ciao, Cristian. Io sono addormentato. E sta lì non è entrato stasera. Sì, è entrato. No, non si sente molto bene. Non si sente molto bene perché rimaneva nascosto, oppure si fa il caso. Non c'è da fare anche la telefonata, io avrei detto. Quel disgraziato delinquente, quanti pesci ha preso stasera? Cazzo, mi è capitato di calamari, che no. Ma io ho il tempo di calamari. Col freddo, ecco. Calamari grossi sono col freddo. Quanto? Io non sono mai in freddo, non sono mai a pesca. Io so che i calamari grossi escono col freddo nel banco del soggiornante del supermercato e costano pure care. Franco ne ha preso 10 stasera. Come hai visto? Ti ha fatto la giornata. Ehi, non mi dire che ci sento anche lei che sono troppo stanco in questo periodo, con questo cavolo di lavoro, con che mi ha detto a manca. A me piacciono molto i polpi e insalata. Allora. Infatti gli ho chiesto, c'era un signore, un amico di mio padre, l'altro giorno l'ho incrociato, l'ho incontrato con mio padre e mi ha detto, dice, la gente ammazzandosi, c'è la barcata a comprare i polpi, dice, non so questo di quanto li vendo io, dice che li pesco io. E mi lascio il numero del telefono e gliele prendo un po' quando c'è io. E invece non ho mai, no, non ho mai chiamato. E lui è che ti dovrebbe chiamare, io la gliele ho preso, se ti interessa, no? E tu non pensa a quello che lui va a pescare. No, ma io ho lasciato il numero, ho detto, quando c'è disponibilità che è piena, mi fa lo squillo, mi dice, io vengo, me li prendo, e io sono il diavolo della magari in loggia. Io non posso sapere che problemi non ne ho. Tanto che vengono per la strada e poi i visi ancora, colpi i visi, uffa che ci muove il pesce, tutto qua. Guarda, il padre dell'amico mio mi ricordo un bel po' di anni fa, io cosa potevo avere, quando non avevo la patente ancora, andando di notte, andavo a scena con questa di compagnia, alla torretta, mentre si metteva la multa, scendeva in due ore e poteva su 20. Sei tu? Sì, ma non è stato nemmeno una cosa a due di quelli. Allora vieni a prendere. Io ho sempre bisogno di studiare, guarda che nel mio mestiere non si finisce mai di imparare, fra. Io lo so come il mio praticamente, sono del tuo diverso dal mio, io sono anche aumentare che tu sei altro tecnico. Ma comunque io così di allenamento li faccio ogni 3-4 mesi, ogni quanto c'è qualcosa di nuovo, adesso ci sono dei nuovi componenti della FIPS, un corso di allenamento per cui sono potuto andare a Genova, e è tutto quanto un problema. Tu pensa che io mi sto studiando tutto quel libro dell'elettronica pratica e non ti dico quante pagine ci sono, tu posso conoscere di me? Ce l'ho io c'ho anche quello grosso che ho studiato tempo fa, dove c'è tutto, perché si sente su canse, con il costoso, il parallelo, su tutte le LC, tutto. 227 pagine, a tu? Sono uno che sembra la Bibbia. Da zero, ma una volta che già sai qualcosa lo puoi riassumere in metà delle pagine. Quando sono andato io non c'erano di quei libri però, mi state fregando voi. Perché? Perché non c'erano i libri, c'erano le fotocopie. Però questo qua è un bel vecchio come libro, mi pare che sia dell'81. Infatti è lo stesso quello che ho pigliato io, quello verde, io sono per il 93, quello di Neri. Claudio, vedo che sono cambiate alcune normative. Cambiate? Non c'è più niente, sono completamente tutte diverse. Tu stai studiando il libro di quinti, sta ripassando l'elettronica, ma oramai è tutta qui. È come la patente della macchina, la stessa cosa. Ci sono 200 cartelle, 200 cartelle da studiare, con domande e risposte, tutto a memoria. Non si pure che non me la convertano. Ma non lo so, perché anche io c'ho domanda alla capitaneria di porto e mi hanno detto sì, le facciamo avere praticamente il, come si dice, il risultato dell'esame, l'attestatino, perché dopo che ho preso quello mi hanno mandato la maddalena e ho preso la patente di conduttore di cavalieri terzo grado alla maddalena, ecco lì sì, quello me l'hanno dato. C'è un altro chiedo però, radio telegrafista, capito? Ma sì, tanto non serve niente, qui cosa ci vuole? Dimmi qua. Allora a me mi hanno esonerato dalla telegrafia perché ero caporale maggiore di seconda classe radio telegrafista, uno, oppure devi essere comandante di prima, di seconda, di terza radio telegrafista, oppure devi essere diplomato, perito, elettrotecnico, oppure devi essere praticamente un radio telegrafista di navi superiori a 15.000 tonnellate. Per il diploma non ci sono problemi, per il coso no, io ero capo di prima scelta, però non so cosa significa adesso. No, praticamente in marina, io l'ho fatto in marina, ero un sottocapo, che praticamente è un appuntato dei carabinieri, per capirci. Quindi devi essere in esercito un caporale maggiore, loro lo chiamano così, sottocapo di seconda classe, praticamente come ero io, sul congedo militare, però attento, io ce l'ho scritto sul congedo militare, ok? Quindi sottocapo di seconda classe, radio telegrafista. Quello nel congedo, infatti quando sono andato a dare gli esami di telegrafia mi hanno esonerato perché avevo quel tipo di congedo, per cui io tra l'altro ho fatto anche ritardo perché potevo usufruire della prima legge anche della prima patente di classe B. Allora, capito, invece io gli esami della prima patente li ho dati, gli esami della seconda patente mi hanno esonerato. Quindi tu devi avere questi requisiti, se poi hai il diploma di perito elettrotecnico, tu hai fatto le industriali. Ecco, là, col perito, con il diploma di perito elettrotecnico è praticamente gli alleghi il patentino di radio telegrafista quando eri in marina, tu sei esonerato al 100%, quindi puoi esonerare della patente di classe A. Sarebbe quella speciale, no, l'ordinaria. Ormai sono unificate le patenti, sono tutte di classe A, non esiste più il bloccio 0 e S0, sono unificate. Quindi tu col diploma di perito elettrotecnico puoi fare la domanda legando il patentino di radio telegrafista e vieni esonerato automaticamente anche dall'esame scritto. Ma da quanto tempo deve essere in possesso il diploma? Io l'ho preso da poco. No, devi avere il diploma a 5 anni. 5 anni no, 5 anni non ce l'ho ancora. Da poco, perché io prima ero sì diplomato, però ero tecnico meccanico. No, tecnico meccanico non serve a niente. Devi essere un perito elettrotecnico. Capito? Perito elettrotecnico, allora sì. Quindi aspetta, dopo i 5 anni in cui chiaramente puoi chiaramente fare l'esonero. E vabbè, comunque ho fatto domanda, li vediamo un po' cosa mi dicono loro. Siccome ancora non riusciamo a trovare questa pratica, perché mi hanno spedito la documentazione a Chiafra, gli dice devono avere la risposta. Sono passato anche l'altro giorno, mi sono andato a portare due apparecchi lì a Porto Torres, mi hanno detto, no, ancora dice, no, comunque dobbiamo avere la risposta, dice, ai primi dell'anno. Vabbè, aspettiamo, vediamo cosa dicono. Guarda, a me hanno mandato direttamente il programma dalla Maddalena, perché anche io ho fatto la Maddalena nel 1979, quindi dalla Spezia mi hanno trasferito direttamente alla Maddalena, alle scuole di allievi sottufficiali, e quando io sono andato lì hanno chiesto direttamente il nulla osta all'ammiragliato della Maddalena e il fonogramma naturalmente poi è partito a Roma. E in giro di 20 giorni, 25 giorni mi è arrivato direttamente la licenza a casa. E io l'ho fatto nel 89, sempre alla scuola sottufficiale, quindi il distaccamento. Ma te ne ho lasciato 10 anni però. È maro, Ma non sai quanti anni ho lasciato io a quelli che hanno iniziato 10 anni dopo. Studiato bisogna, anche a stare qua, e tu sei già avvantaggiato, tu, dai, c'è in mezzo a queste cose. Non c'entra niente, Fra, non c'entra nulla. In queste cose è tutta una questione, molte volte, anche di fortuna. Perché anche uno che ha studiato va va lì, magari, siccome va lì, uno che è pirata va lì, che pensa di sapere più degli altri, magari si intrippa più degli altri pure. Di mandare gli altri che ci esce promossa la prima, capito? E vabbè, comunque c'è le cose, cioè, una volta che tu sai quel libro lì e che ci dà tutti i quiz, che sai tutte le normative, puoi fare anche sempre qualche sbaglio, non c'è problema. Però mamma era fatta della macchina. E magari, così ne viaggio tre io. Sì, la parte della macchina non ti occupo, Luca, a confrontare su questo genere di io. Se tu vedi quello che sto studiando io, ti metto le mani in testa. E poi, a parte studiare, a parte devi calcolare tutti gli uomini, devi sapere tutta la legge, gli uomini, cosa sono i baroni, cosa è mezzo quarto, cosa è un quarto di quarto, cosa è una corrente continua, cosa è una corrente affermata. Lo dico io, gli uomini sono degli uomini grandi grandi. Già, riprende. Comunque sia di cosa, è un la giova con presunta. Ma vabbè, non ho mai studiato faccio. Ma neanche i valori dei scusi, dei ah, non mi vengo. Sono proprio quelle. Già, riprende. Ma fa studiare anche lui. Beh, io vi saluto tutti. Faccio quelli qui, ciao Luca, l'altro Luca si è ancora in ascolto, Claudio, Franco, Gianni, Napalino si è in ascolto, e tutti quanti quelli iscritti, a tutti. Tanto, buonanotte alla prossima. Avanti Claudio. Tanto, tutti pariti, Franco è parito. Gianni. Franco e Claudio sicuramente sono al telefono. Gianni sicuramente va alla campanella a cenare. Cristian pure, vabbè, ciao. Tanto, ciao. E tu l'hai venuto da un'altra tomba. Come si usa il massimo in radio? Vai. Insomma, già va a meglio adesso. No, stiamo parlando di patenti qua. Ah? Si è rilanciato, Antonio ha chiuso. Si è fruttato anche. Si avvagliava. È minimo. E se mi buca, non sta scuola alle 5, ma... in gamba la signora, eh? Fai molti di viaggi. Comunque ce n'è ancora gente che gira, se fa patente in macchina, pieno. E infatti, se la ragazza ha patente 10 anni, va bene. Insomma, la foglia rosa, potete mettere le P. Pericolo pubblico. Gappa. Yuga DJ, eh? Che Yuga dava. È arrivato, la rumi da ancora. No, vai a dormire, vai. Vai a dormire. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Siete scappati. Ciao le morrete. Importante, importante. Molto importante, molto importante. Che tu lascio non dormi mai. Non è di pomeriggio, non è di notte. Mi sono quasi meno più... ma lasciamo fare, no? Forte. La radio è forte. Ah, senti, quando arrivi giù a Platamone, eh? Gianni, che non si è dormito con il microfono in mano? No, io sono sempre Claudio, sto parlando qua, tu chi sei? No, ma non mi interessa se chiama da Franco. Ciao Luisa! Tutti quanti di fintuglio 7,15 h, ma ci vedete? Allora, cosa hai detto? 7.100 diviso 40, così è. Parte da 7.000 a 7.100 la frequenza. La banda è 40 metri. Cosa devi fare tu? Devo dividere 7.100 per 40. Cioè, 7.100 diviso 40. Io non mi faccio neanche io di più mostrare ciò. Se tu che lo devi fare, se te lo dico io tu non lo fai. Se io ti ho detto che la banda è 40 metri, allora abbiamo una banda larga da 40 metri, un dipolo dei 40 metri, i due bracci da quanto devono essere? 20 metri. Ah, hai visto le antefatti? Ma coppa è 40, ne ho preso due, no? E sono dopo coppa che te lo dico. No, oh, tu hai detto che 7.000 diviso, non ti ho preso un bello. Io ti ho detto, di polo è 40 metri, qua diviso per 2. Allora, 40 metri di polo diviso per 2 sono 20 metri abbracciata, così è. Circa, perché poi c'è il baro. E vabbè, quello... Quello va sempre calcolato, quello va sempre calcolato. Se tu ogni tanto dai in ascolto, io ho 80 metri dove ci sono dei bei QSO a 3007, si parla molto di antenne, si parla di balom, si parla di risonanze, si parla di tutto. Di radiazione d'antenne, potenze, balle varie. E lì c'è molta gente veramente che ne sa, comprese anche nostre conoscenze. Capito? Segnale. Per quello. 9 in via, deve essere in giro a Sassari. Mandate un messaggio, Anna, Maria Luisa, col tuo numero di telefono. Beh, infatti quando lo scrivono a lei, sicuramente ce l'avrà lì, no? Altro non è umile. Pigne, a pigne, tutti quelli pigni, sì. Allora, come finisce il finale, dimmi? 2-2, ma si disegni. A pigliarla, 0-84. Capito, Claudio? Allora sì. Sai tu, un numero, ma come lo usa? Sono la memoria io, facca leggera. Ma la memoria che ha femmina. Infatti l'altro finiva 2-2, è vero. Ma non cosa dicendo, ho visto un catamarano attaccato alla cone. Ehi, con quel catamarano attaccato alla finestra. Tu hai aumentato un bel qua. Ah, che bello. Che hai avuto, dillo, e che hai avuto? Andrò porto via uno, Maria Luisa. Ringrazio che faccio il nome, che non avevi manco qualificato. Ah, lo fra, io sono il sentiero, va. Però non c'è bene, no? Era lui. Lo sentite con 333? È quello, per carità. Allora, mi vuole Maria Luisa di frequenza. Allora, Maria Luisa. Luca. Ufra. Fatti pagare la tassa dell'affitto a Maria Luisa, anche che lo scrivono anch'io. Non è mai uscita un cimbretta, se pure la intendi. Vabbè, ha ragione che fa casino. Fa ruolo di alternata, boh. Ma secondo me non ha panico, perché quello che c'è aveva lo facevo, eh. Tu fra. Voglia, dimmi. No, è attivo. Allora sta fuori che stanno giocando col mio. Ci sentivi e te ne stiamo mandando i messaggi a tutta andata. Penso che lei non li ha mandato, boh. Come era lui? Lì è un balletto più bello. Io ho il Nokia 333 10. e ti mando un messaggio, guarda, non dico balle, in un minuto, ma un messaggio pieno però, eh. Un minuto? Se mia figlia ti mette mai in testa, non guarda neanche la tastiera. Vuol dire che sì, no, io sì, no, però le uso. E sono sicuro che tua figlia non la mette in tasca, senza sì, no, però. Ah, sì, no, tu, io ne sì, no, ne sì, 10. Io comunque due via mi ha dato un messaggio. Ma se no, quando scrivo una parola ci metti un secondo, neanche. Perché è normale, ci metti di più. Ma andiamo a fare, faccio in fretta, eh. Non mi mando il messaggio, non è vero. Non mi mando... Quando la team mi dà un messaggio da mia figlia, in due giorni ci rimangiano. Faccio sempre messaggiando. Capito? No, è una cosa che non riesco... Non sono mai riuscito ad usare. Cazzo, non lo sai, che non sarà più finita a sé. Io le posso mandare 100 al giorno per un mese, però solo Vodafone. Team no, solo il pago. Vabbè, il pago, non so che io. Solo Vodafone. La figlia è Team o Vodafone. Ciao, ciao, Vodafone. E poi mia moglie ci abbiamo un team, ma c'è anche il team, mia figlia. Ne ha due telefoni, team e un telefono. Ah, secondo me la team è la migliore, io sono la team lo stesso. Con la Vodafone trovo molto male, io la team ho la licio, no? Boh, 8 anni, 9 anni. Guarda, io c'ho il numero, metti il numero di socio, e lì ha 6 cifre, capito? Ce l'avevo prima bolletta, figurati, i primi che sono usciti. Sono 15 anni, 13 anni, se non fosse di più. Anche io, sempre team. Ho avuto Wind, ho avuto 3, poi ho avuto lo Blue Mai, non mi è mai piaciuta, perché non, era un operatore che non andava. Niente, io con un team mi trovo benissimo, bene bene. E ho tipo di curia. Che l'ho avuto un bel. Ma la team è sempre la migliore, un buon dare a lui. Ma ancora che le vendi? Manda con la freccia, c'hai, ma. Giù. La pesca di là, Claudio. No, io ho la mia personale per quella dell'azienda, basta. Mi basta nei due telefoni. Perché lì ti circola mai tutte e due. Voglia. Ma voce normale qua, ma rispetto a prima mi pare illogico, mi pare. anche un po' messo male a riparare quell'altro che abbiamo qua, capito? Ma no, come andiamo a Cagliari, in quelle cose ci sono un sacco di cose. E ci sono quel microfono da 10 euro, mi pare, 15 euro, della CTE, boh, no, adesso non me ricordo quali erano. Quelli neri, con la manopolina, con la rotellina sopra, che vanno molto bene. E allora prendono di quelli. Perché mi dispiace quando le metto a 100, se riesco a trovare quei pizzi, lo posso mettere a posto, capito? E si conferma. Che si serve ora la 300? Ma mi serve praticamente il pulsante della portante praticamente, e in più l'altro, il potenziometro della preamplificazione del rotocrui, capito? Il resto è tutto a posto, ho cambiato clima, ho cambiato tutto, però il problema è lì, capito? Guarda, io dell'altro l'ho aperto il potenziometro, che cavolo si chiama, ed era un bel sporco dentro. Quei contatti che c'ha dentro praticamente erano boh sporchi. L'ho smontato, pulito, riplazzato, non me lo faceva più il rumore. Sì, ma io l'ho smontato 4 volte, l'ho pulito, l'ho rifatto, però c'è un problema. Praticamente dove scorre il trimmer, il potenziometro, il carboncino cosiddetto, quello con un K, lì è tutto spaccato il carboncino, quindi quando quello ristriscia e ristriscia, fa tutte quelle scariche lì e va, e praticamente ci affisti, capito? Solo voi te li do io, ce li ho. Ma cosa c'è, questi tre lì? Certo. Di quel microfono? Sono tutti uguali. Non sono tutti uguali, Luca, sono diversi. Perché anche io mi ha dato un altro pompone, era diverso, era più grande rispetto a quello che c'era sotto, piazzato. Se ce lo sono uguali. Beh, sono Gianni di quei potenziometri, cioè è uguale a quello dell'M300, uguale a quello dell'F16. Infatti l'ho smontato, mi ho preso i pezzi, mi dicevo a me, e un rumore non lo fa più, ma se tu lo chiamai a lui io non lo fa. E poi che pezzi c'hai tu praticamente, anche il pulsante della portante c'hai. Dove la prendo uno, ma no, se vuoi ti do i cugini, i carboncini, quei cugini dorati stai dicendo? Carboncini? Tu l'hai detto, carboncini, già, ma quei cugini dorati ci sono dentro, le lamelle, quanti li vuoi chiamare? Quelle che scorrono nel potenziometro dentro. No, qua mi serve il carboncino, non le lamelle. Fra, già te li do, no? Guarda, lì c'è quanto ti do. Ma lì queste, c'è scende tua moglie là, la vai a lui, sono là lì. Chiappa, chiappa. Ma dove me ne vuole il pompugno, pensiero? Ho dato il pompugno. No, va bene, è tutto diverso, è più grande, no, va bene. Ho provato a attaccarlo, a comprare un carro, niente da fare. A parte che c'è anche la levetta più corta, ma quello non sarebbe un problema. È il problema maggiore che non ci sta nella piastrina, nel circuito, capito? Nel circuito stampato è tutto diverso. Gava, gava. No, ma lì qua, lì c'è il contenuto. Non c'è problema. E tu, ma l'hai aperto in due il potenziometro? No, l'ho praticamente l'ho disciandato, l'ho aperto, l'ho pulito, l'ho ripiazzato, ha funzionato per 3 giorni e di nuovo lo stesso problema, capito? Scusa, ci sono questi cavoli di così lì. A quanti piedi è? A 12. Non li ho contati quanti piedi, ma me ne servono due a me. Mi serve quello che ti mette la portante che va in trasmissione, è quello quando vuoi ti dà l'accezione, capito? L'altro vediamo, perché io ne ho, tu mi devi dire quanti piedini è, perché se ha 12 piedini te ne piazzo uno, ce l'ho io, sì, te lo piazzo direttamente e ti metto carboncini nuovi, non si chiama, non si chiama, è uguale la pelle piccola, là. Dammi il pezzo e poi chiamo arrangio io, adesso qua in mano non ce l'ho, però posso aprire e posso vedere un attimo, se ricordo tu. Guarda quanti piedi lì. Perché mi ha dato Gianni a me. L'ho aperto, lui. Infatti gli ho messi quello che c'ha Maria Luisa e non fa più quel rumore là. I pezzi di quello che c'ha Maria Luisa, di quel microfono lì, vanno bene sotto questo microfono che c'ho pezzi, quei pezzi che mi avevano il potenziale mi hanno rimelato Gianni, li ho messi lì, sai che mi faccio quel rumore. Ma lo stesso problema che fa il mio, uguale identico, c'è un 12 piedini. Beh, allora non male, da. Cioè, mi piacciava, dovevo, posso andare indietro delle scatole, da. Domani non cerco, se lo metto da parte. Però mi serve, oltre a quello che schiaccia la portante, tu, mi serve anche il potenziometro, quello lungo che va sopra. E il coso che scorre, da. Cappa già, se tu c'è quello, io rimedio questo, perché mi schiacci buttato via, ragazza? Perché non finiamo il microfono, ti ricordo quanto ci va bene. Gava gava, ascolta, ma in ferro o in plastica il coso dove schiacci? In ferro? Ce l'ho allora, dai, tranquillo, già ce l'ho. E quell'altro come scorre con la cosa della plastificazione da 1 fino a 4, quello lì è in ferro stesso. Va bene. No, lo cerco e sono messo da parte, chiuso, non c'è problema. Ciao, ma ho preso Maria Luisa, che cosa sta parlando tu, quello di Maria Luisa? Lo porti qua, io lo noto e facciamo un M300 da quello. E dimmi, ma dammi un tratto, dimmi un pezzo di legna, ma ti fai sci. Vabbè, un pezzo di legna, te lo fa, lo vedo pure ora. No, fra, dato che scendi sul microfono, adesso mi sta con te, mamma mia. Ah? Sono Claudio. Grazie. No, non mi ha rimasto niente. Ma il mio o quello di Anna? E dimmi il finale, che numero è? 3-5, no, non è il mio quello. Allora è quello di Anna. Il finale è Maria Luna, perché è un finale di un numero, vuol dire gli ultimi tre, non i due. Gappa, 535, è quello di Anna. Ma c'è un di Franco. Arrimato, sì. No. Tu l'hai mandato a me, l'hai mandato, ma l'ho detto altro, 535 è mio. Ho capito, ma Gianni non ha più ripreso, Gianni ha vinto 3-10 euro. Dromiddo. L'altro Dromiddo. A 10 a 10. Guarda, io lavoro lo stesso, lavoro mia pesante che viaggio lo stesso. Però quindi io non ricordo niente praticamente, il mezzogiorno non mi curico, solo la notte blu. Ci conferma, io mi alzo tutte le mattine alle 5 e mezza, figurati alle 5 e mezza, alle 6, a volte alle 5 e mezza, dipende dall'ora che devo entrare, se ho cose da fare, prima che arrivino gli altri, capito? Ti lasciamo mezzo stanco stasera, eh? Ma il mio, cos'è tutto morto? Magari sono a vedere, magari ero Ugo. Ma ci occupa di Marlo. Allora manda messaggi pure ai carabinieri, Iscia. Ma glielo attacchiamo a quello da base, a Maria Luisa, offra, col microfono a tavola. Ma è quello da base. Quello che c'è l'orologio, quello grande. Ah, 220. Ehi, ma non che non tratta di metterlo. Guardiamo se c'è una boomerang e piglio il carro e attacco un differente nel televisore. Ma la cosa non vuoi, non vogliamo mettere antenne, capito? Perché già c'è una web, la bucciatura, perché stava facendo problemi, non so. Ma il problema di vivere? Ecco, fatelo spiegare da lì. Ma era lui. Lui? Ma con la boomerang si può mettere anche dentro, capito? Ma attaccare l'armadio. E ci va un capitale di Loretto, ci va buono. Io mezzi anni fa, io ti parlo di 10 anni fa, prima avete la pena sul tetto, ce l'avevo attaccata praticamente alla rete del letto. Ma non c'è la ringhiera lì da qualche parte, non c'è niente. Sì, dove sta nella roba, ci sono le stampe, basta, non va bene anche io dove sta nella roba. Allora basta metterla lì. Tanto è un'antenna, una frutta nera, mi pare che sia un metro, con un radialino da 50 centimetri perpendicolare, con quella è più sicura, capito? Della TAO, con lo strumento della TAO, invece come Cristiano, allora può mettere qualche radio come Dio comanda. Maria Luisa, l'inter che è tuo? Ehi, col microfono a mare? No, all'F16. Esce bene? Non va bene. Era stato vicino un po', se da graziare. Se usi lontano. Se da Teresa ha un microfono, non la riconosci. Non la stavo riconoscendo io. Oh, ma c'è lì, manco io. Ora richiamo, via. Sai che c'è un timo di voce in quel microfono che è una cosa allucinante, pari, un'altra bazzona. Non sai che l'ho convinto era, Sandra? No, dico, ragazzi, no, bugia, no, aspetta, bugia mia, no, sto sbagliando. Questa è una bugia molto grande. Sapevo che era Teresa, aspetta, però... con quel microfono lì non sembrava neanche lì, sembrava un'altra persona. Non ti sei fidato di chi era, eh? No, sapevo che era lì, claro, sto sbagliando io, c'è una bugia più grande di me. No, sapevo che era lì, però è un'altra persona sembrava. Io l'ho sentita anch'io, a me mi sembrava Sandra più che lì. E qua la modulazione è molto strana, che praticamente non sembra neanche lì, cioè non sembra lì, ma comunque già esce bene, già andava, e se si scatta quel filo là è un casino, d'ora, se lui ci rigabbo a 3-2 ore, ma poi l'ha posto. Quale filo? È un filo saldato alla cacchio dei cane. Ma sta bella le cose adesso, sono già una vicenda lì con Franco, non trovo antenna, dici, se c'è un posto per mettere un'antenna come ci deve, ci mette una boomerang anche piccolina, a me è arrivato a tutte le parti. Devo dire il lavoro che ho fatto alla Turbo io. L'ho terminato oggi, cavo nuovo, una cannonata col cavo abbiamo preso fra. Veramente buono, bello, bello morbido, passato tre parti e poi gli ho messo 8 radiali nuovi, la bobina nuova sotto, tutti i connettori nuovi, tutta nuova l'ho fatta. Capo è positivo. Che stavo dicendo, con l'antenna che ho ordinato, da Grassi, 99 euro. Io ho attaccato sotto alla bobina il cavo a 220 con l'interruttore qua sotto. Come ti vedo con il macchia, con l'interruttore arrivo a San Lucio. Tutti i radiali mi hanno rovinato, capito? Tutti tagliati e tracciati. E poi non si possono neanche rimettere i radiali perché all'interno dove si inseriscono i radiali lì sono tutti fatti marci. Questa è l'ultima volta che la riparo questa, l'ho fatta nuova nuova. Ci si dovrà la faccia radiale, ho bisogno, mi faccia radiale, piglio la mano, la taglio in due e la butto a terra, e la metto nuova. Fino a quando dura, ho voluto così provare a ripararla, a farla, è venuta perfetta. E capo, in definitiva le cucchi, tutto lì, capito? Perché se comincia a essere così a mettere il radiale, dovrei buttarla giù praticamente e metterla nuova, tutto qua. Maria Luisa! Maria Luisa! Cioè, poco fa non so neanche cosa mi ha detto. Maria Luisa è coricata, Maria Luisa è a letto sicuramente, capito? Beh, io sia un gioco. No, mi stava dicendo qualcosa poco fa, però non lo ricordo. Stava dicendo che non sapeva fare il numero di telefono, capito? Stava dicendo. Beh, vabbè, io sia un gioco. Non ho bisogno di me lo dirsi. Già, va bene. Riprendi qua. Comunque, come radio, Luca è forte, sta qua, no? La tua? Cappa. Forte giuro, una bomba. Io ho fatto un lavoretto a questo microfono qua, questo M5 da tavolo, che non c'è. Prima ti ricordi che stava sempre fischiando? Ho aperto la campus, gli ho fatto un trabacchetto dentro, adesso non fischia più. La faccio una massa, la campus, da qualche parte. No, c'era una lamiera che mettono all'interno dove c'è la campus lì. Che faceva praticamente che toccava a massa sopra il filo della capsula, capito? La seconda domanda che vicino al baracchino cominciava a fischiare. Allora ho preso e gli ho eliminato. Cosa deve essere, controllo? Cappa di positivo. Ora se lì ne metti una di telefono, sul microfono ci è la bomba. Come il telefono? Poi, ma piccole sono, quelle grigie piccole. Cappa, quelle piccoline quante unghie, dai. Bravo, una di telefono, telefono di casa, se ne busco un vecchio, lasciati gliela metti. Io a Maria Luisa, quando la chiamo Maria Luisa gli ho messo una di quelle, per quello non sei così forte. Ma io la modulazione Maria Luisa non mi sembra molto forte come radio. È mia al minimo, è al minimo. Quindi aspetta, poi anche se qua ci sono le amplificazioni. Adesso io qua ho aumentato la tonalità praticamente. Guarda da questo passaggio la radio com'è, se è più forte di prima. Sì, è più forte, è molto metallica. Metallica, quindi va bene. Insomma, guarda, non è che sia... Va benissimo, fra. E cappa. Allora lascio così, dai. Ho regolato la tonalità qua, perché era troppo bassa la tonalità. Adesso praticamente gli ho aumentato la tonalità. per carità. Ma le malette, ma le malette, ma cosa ti dice? Sì, sì, che... E adesso la metto giù botta e esco io. Ma non siamo fra, che ora siamo? Le 22.53, hai detto che andiamo a casino, me. Si butta a fare questa legge. Sì, sì, sì. Capito hai. Ah, perché ho capito. Comunque buonasera. Buonasera. Saluto a tutti. Buonasera. A tu. Buonasera, Natalino. Claudio, ho trasferito a Gianni, la prima volta a me, ma c'è la di lui, sono scendato, lui prende più a Tarino. Non c'è, sono scendato, lui prende più a Tarino. Poverino, Gianni è... Guarda, la cosa allucinante, ma la stavo salendo, aspetta, la sera di Teresa, e l'ha detto riprendi, praticamente stava sognando la sua collega, ha detto questo nome, ha detto ma lei, ma già, ma la divisa, io non c'è, oh, scusate, stavo sognando. Mamma, ma perché non vai con i cazzi? Seguendo il discorso, stavo leggendo il giornale. Ci fosse Natalino, perché poco fa c'era. Era il Natalino, che si trovi la volta la legge droga, non più arriva a me. Natalino è droga, di alla frutta dormito, Natalino, Gianni, non ci sono più. Ave tratta, sì. Oh, ma è lui. Anna non è può ricevere Messi, ha detto mandare Malmolo. Screensaver lo so, il cellulare, ma non è a colori. Ah, hai capito, è l'aria di esame. MP3, puoi ascoltare la musica, puoi ascoltare tutto lì, e poi c'è anche il cavo. rete di collegamento per internet, capito? Però non riesco ad abilitarlo, c'è un codice da digitare e non me la metto. Faccio una mattina, però la scarpa non la faccio abilitare. E allora mi mandi il subizzino. E a chi devo chiamare? Ah, 119 allora, Timmy. Ma non ha nessuno, beh. Io dico, ascolti, mia zia mi deve mandare la fotografia di mio nipote, che è nato malato, e dice, ah, è nato a tre zampe. Allora chiamo 119, esci a venire, riprendi il telefono. No, non ci riesco, ma quando me le dici che ho fatto una prima, sto scattando, anche Claudio gli può ricevere, perché io ho visto il cellulare, ma è un bel velo. Claudio, devi chiamare come ha fatto Franco, perché a Franco gli hanno fatto Luigi. Secondo cosa mi dicono, ti mandano la mara, provano a sera, quando c'è Franco passo e me lo faccio fare a Gigi. Tutto, l'ho detto, mettiti la scheda in quello, nell'altro telefono e mandili a sms, no, sei cosento da mandare. Ma non intendo, c'è cosento da mandare. Già, senti questa, figlia lo so con la mamma per il cavallo fa le pipì. Mamma, guarda che bua che ha quel cavallo. Magari tuo papà non c'è tanta bua. Lo so tu, Fabio. Dove sono qua? Lui è lì, a letto, dopo l'amore lì. Ma che ha in mezzo alle gambe? Il Titanic, lui, ghignando. Perché? Esatto. Perché è stato grande, lì. No, è affondato subito. È affondato subito. Due amanti, lei, perché porti la parola di slip? Lui, perché se non vengo ti, se non vengo, ti scrivo. Bella quella. Vabbè ragazzi, ne approfitto, ciao a tutti, salutoni, io vado con i carri che ce l'ho preso da morire. Ciao Anna, ciao Maria Lisa, ciao Luca, ciao Claudio. Ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, vi lascio compagnia di Franco, ciao ciao Claudio. Ciao Tere, buonanotte, alla prossima, ciao. Ciao a te, ciao, buonanotte. Fermi cicali, voglio giocare al golf, ma non hanno né massa, né palle, né buca. Uno dice, io metto la massa, il secondo, io metto le palle, l'ultimo, io non gioco. Ci andiamo a morire un culo. Già è tardi, non c'è nessuno là sotto, per carità. Tu ci battendo subito un matto, gatta cicomba. Che raggi. Ah, va bene. Ci vanno a baciare. Va bene, dai, cosa fate con il trattamento che è stato? Mi fumo una sigaretta, esci. 10 minuti. E poi me ne vado a anch'io. Avanti, c'è il prendo il telefono, tanto. Non possiamo, abbiamo 10 ma che sola. Questo microfono è andato, mi stai facendo una, prendiamo le sigarette. Avanti Luca. Ciao Agava. Allora, duro duro in verità, è ancora meglio, non si sa. Se, aspetta, se lo infili pure in bocca, ha un sapore che ti tocca. Con i denti fa attenzione, non si scherza col torrone. Chissà, è più romantica. Ma queste te le mandano al telefono? Ciao Gava. Ciao Riccardo, gli ho detto, mandami qualche barzelletta. Un paio. 30 me ne ha mandato. Lì le dovrei prendere, al telefono sempre. Gliele mandano, no? Tramite amici che... Gliele mandano e poi le manda a me, grazie amici. Chi sa bene mi la conosco, siccome è chiatta, nel televisore, no? Cioè, ha 55 anni. E com'è? Ma sa bene. Ah, dicono che è bionda, che ce l'hai, si chiama da Garriga. Ah. Ma tu la vedi nel no? No, di, no, nel televideo, su Italia 1, su canale 5, vabbè, ma se, no, non li vedi, no. E di cosa? Di Udine. Ma com'è nel di Bologna? Me l'hanno dato un bel pucaccione, vado, un bel, un bel. E allora c'è di canta in italiano? La giata burugata. Salvignola, Salvignola. Ma è lui, a dormire ci è andato. E anche a Muniera è andato. Ehi, e che l'hai trovato questa scuola, eh? Ah, no, io non mi uso sveglia. A quell'ora sono in automatico, apertura degli occhi in automatico. E ci conferma. Carletto passeggiando verso un agio, evidente stato di eccitazione. Mamma, mamma, ma cos'ha quell'agio tra le gambe? Quella è la verità, figliolo. Ah, ecco perché Catina Casini cantava, la verità mi fa male. Catina Casini, sono da male, gli altri cider. A Maria Lurisa l'ho mandata, ma lei è arrivata. Alla passiva. Comunque niente, allora sul 5, sul 10 ci mette la portante, sul 15 non ci è venuto, anzi una volta è venuto, poi siamo ripassati intorno al 5, in chi è portante, poi di nuovo al 10, e lì ho stesso, al 15 non ce l'ha più messo, infatti poi ho sentito degli splatter, forse tuoi, perché ho sul 15 o tu sul 10, e te ne passiamo là, però io non sono entrato. No, io mi sono ascoltato, allora, mi sono ascoltato prima sul 41, sono andato fuori banda per vedere se c'erano stazionarie, e poi mi sono ascoltato a metà sul canale 20, e stavo fischiando per vedere se c'erano, fischiando, stavo facendo sul interprove, dai, ola, ola, ola, per vedere se c'erano stazionarie. E poi sono passato direttamente sul canale 10. E infatti no, non ti ho sentito, pensavo che non c'eri. Gappa gappa. Beh signori, io vi saluto. Sono le 11:30, la sigaretta mi ha fumata e anch'io domani vado un casino di cose da là. Devo andare anche a prendere un mio collega che è a piedi. Grazie del coesciamo, delle due risate, della compagnia, di tutto. Grazie anche alla portante che stasera ci ha dato la possibilità di farci due chiacchiere. Ciao Maria Luisa, ciao Luca, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, Claudio Salvero chiude le trasmissioni, se no domani mi canta Rubucco. Riprende Maria Luisa. Ciao Claudio, buonanotte, alla prossima. Ciao Maria Luisa, anche a te buonanotte. Tutta domani, tutta le migliori, saluto anche gli ascoltori, ciao! Ciao a todos, se sei in giro in moto domani mattina passa sotto a vedere come ho sistemato quell'antenna di TPR. E ci sono passato stamattina perché stavo andando la scarpa e sono passato da Milano e ho visto che non era molto alta, ma quello che spara, spara di brutto. E cosa ne fai tu? A mettere la tua porta non conviene, tanto c'è l'altezza del palazzo. Adesso l'ho sollevata un paio di metri, ho tirato sul tubo un paio di metri perché era tutto basso. E poi si vedono, cioè sono tutti radiali nuovi, tutti uguali. Stamani l'ho visto tenendo tanti aggiunti, tanti il capo nuovo messo. Già ho fatto un bel lavoro, vedo che adesso già va bene. Prima era una burreria io, adesso finalmente si può fare qualche collegamento, grazie a Dio, cioè, già sentivo bene a tutti, ma i segnali non erano così forti. Il capo di Maria Luisa mi ha aumentato 3 punti S da 5 a 8, ma lo sai cosa vuol dire? Che lavoro è a regola d'arte. Poi ho provato sotto, sopra, da tutte le parti, non c'è stazionario, nulla. QRM è normale, prima si intendevano degli scarichi perché i radiali erano tutti i marci. Li ho messi tutti nuovi, tutta nuova l'ho fatto. Va bene, ciao, buonanotte, a domani, ciao a tutti, niente, ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi, senza ragno dietro, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao temporato a 50, ciao. Ciao, grazie, ciao ciao.